grande senso se ci sei. Ti mostro nuovi sentimenti agli occhi tuoi, che sai portarmi in paradiso e poi più su, fino a guardare il mondo che vorresti tu. Forme sul sentiero, poi d'improvviso noi, aria fresca di un mattino un po' diverso, ma come un'onda nel pensiero tu ci sei, calami di tutti i desideri, sai. Il tempo passa ormai, l'amore fa come sai, i due sguardi in uno già, uniti per l'eternità. Il vento passa ormai, l'amore va come sai, agli antiliberi io e te, senza più dubbi né perché. Smettere di chiedermi perché tu resisti a lungo nei pensieri miei, se solo ieri avevi qualche dubbio ormai non si legge oggi dentro gli occhi tuoi. Il tempo passa